Entrammo nella bottega dei libri. Ofione cercava di mascherare la commozione della scena a cui aveva assistito, ma i grossi occhi azzurri lo tradivano. Sai da quando stava appaloiato su quell'albero? Da questa mattina, da quando lui e Demos sono arrivati dal Pireo, così avrebbe potuto vederti un po' prima per Zeus. Scosse il capo, si grattò il naso. Conoscendo persone come voi tre, poi Eudosso, Focione, Diogene, Iperide e Coridemo, uno potrebbe essere portato a pensare che questo mondaccio, in fondo, non fa tanto schifo. E ci lasciò soli per recarsi allo stratega Eion. Demos mi accolse fra le sue braccia, liberando la dolcezza del suo sguardo. Non hai un ragazzino che merita davvero il tuo amore. Sarà nostro figlio, Demos. Cercavo i suoi occhi in cui avevo colto un velo d'amarezza. Finalmente si decise ad affrontare il mio sguardo e col tono di un sentimento intimo disse: È già nostro figlio, e pur non avendo il nostro sangue è proprio come lo avremmo voluto, povero nobile ragazzo. Ancora non crede che tutto questo sia vero, e durante il viaggio mi ha insegnato a leggere e scrivere. Mi strinse al petto, al suo cuore che tuonava. Perché non mi hai detto niente della voce che circolava fra gli schiavi delle miniere? E mi abbandonava al suo abbraccio. Non volevo che questo sogno di minatori schiavi influisse sulle tue scelte, caricandoti di troppe responsabilità. Va bene, Demos, la mia faccia somiglia lontanamente a quella delle statuine. E allora? Cercavo i suoi occhi, riuscii a staccarmi dalla stretta ferrea, a trovare il suo sguardo incantato. Oh, Demos, se tu potessi vedere l'espressione della tua faccia. Non è quella dell'uomo intelligente e ragionevole di cui mi sono innamorata. Ma lui proseguì con voce ferma. Prima di conoscerti, molto prima che tu nascessi, le statuine erano già saltate fuori in alcune miniere e nacque la leggenda, fin dalla prima rivolta di 80 anni fa. Gli schiavi dell'Aurio avevano trovato una mezza statuina, pensarono che fosse l'immagine di una dea, la dea della libertà. Quell'immagine divenne un simbolo, una speranza, anche quando vennero riacciuffati e sterminati. Mi strinse la vita con le mani. Scommetto che Eudosso non t'ha detto come chiamavano quella dea. Non dirmi che la chiamarono Assiotea, perché non ci credo. Questo è solo uno scherzo preparato da quel mattacchione di Ofione o di Diogene, e tu sei un loro sicario. E cercavo di respingerlo, di separarmi da lui, infastidita dal sorriso melenso che gli deturpava il volto. Gli schiavi dell'Aurio scelsero il nome della dea della libertà e la chiamarono Assiotea. La dea giusta, degna. Ora la sua faccia era seria come mai, e la leggenda dice che un giorno Assiotea tornerà per liberare gli schiavi di tutte le miniere e poi di tutte le città. Questo ha narrato la leggenda per oltre 80 anni. Quando sei arrivata all'Aurio, Temisone sapeva tutto. Probabilmente ti assegnò a me sapendo che io non potevo metterti incinta. Mi sentivo sgomenta, il cuore mi batteva forte. Demos, è bellissimo per me portare questo nome e questo simbolo, ma resta pur sempre una leggenda e nient'altro. Per noi due è così, ma per quei poveri disgraziati che ancora scavano nell'inferno, avere una speranza è tutto, altrimenti la farebbero finita. I miei pensieri correvano rapidi come i battiti del mio cuore. Demos, pensi che Firomaco e quelli dell'Accademia siano al corrente di questa leggenda? Credo proprio di sì. E credo che anche Iperide la conosca. Credo che nessuno voglia ammetterlo, ma nel loro intimo tutti pensano che qualcosa di grosso si stia preparando con il tuo ritorno ad Atene. Lo collegano con il tuo discorso alla Pnice. Il tono della sua voce era tornato asciutto come sempre. Per volontà di una dea o meno, figlia della dea Assiotea o no, tu stai lottando per abolire la schiavitù. E lungo questo cammino hai trovato me, Marpessa. Iperide, Eunae, Ofione, Focione, Diogene e Eudosso, pronti a dare la vita per te e per la tua causa. E da quello che mi ha raccontato Fione, a questo gruppo sta per aggiungersi Coridemo. Lo tempestavo di baci. Devo dirti una cosa. Me l'ha detta Ofione. Non lo potevi evitare. Madre Natura ha le sue regole e io lo sapevo perfettamente. Mi fece male, mi baciò con violenza, mi mise le mani attorno al collo, quasi mi soffocava. Sarei un'ipocrita se ti dicessi che non me ne importa niente. Gli taglierei il fallo a Iperide. Glielo troncherei con un solo colpo, come fecero a me. e respirava affannosamente. Ma questa è la reazione della bestia che è in me. Io sono anche altro per Dio, e quest'altro è una persona con cui vado d'accordo, e quest'altro è un uomo che ti starà sempre accanto se lo vorrai. Gli risposi solo con i baci disperati. Poi il nostro abbraccio si trasformò in una sorgente di tenerezza. Demos, va bene. Questa leggenda serve a tanti schiavi per tenere accesa la speranza, ma allora per i potenti di Atene sarebbe meglio che colei che incarna questo mito sparisse. E infatti ti hanno sbattuta all'aureo, da dove non dovevi uscire viva. Ma ora sono tornata e ai loro occhi potrei continuare a rappresentare un pericolo. Faranno di tutto per eliminarti. Però ancora non si decidono. C'è in ballo la faccenda delle statuine e delle miniere d'oro. Pensano che prima o poi tu li porterai alla casa del cielo, alla mappa delle miniere. Ma la mappa ce l'ha Eudosso. È lui che sta facendo le ricerche da anni. Una cosa è certa. Tu dai fastidio ai potenti di Atene perché cerchi di cavalcare la lotta per l'abolizione della schiavitù. Ma la faccenda del guardiano è altro. Forse è il guardiano che segue te. Penso che lui non conosca l'ubicazione della casa del cielo e magari crede che tu sola potrai portarlo là. Un'espressione pensierosa apparve sul suo bel volto. Ma dimmi, com'è andata l'accademia? In breve gli raccontai l'accaduto. Sul volto serio di Demos apparve una smorfia amara. Che Eudosso sia il nostro divulgatore non è poi tanto strano, ma che il guardiano assassino possa essere uno dell'accademia, per Dio, questa sì che è una brutta faccenda. Lo sguardo del mio compagno era un miscuglio di paura e amore. Assiotea, forse è meglio che tu non frequenti più quei maledetti giardini. Tirai fuori dalla borsa i fogli di papiro che avevo prelevato dalla cassapanca puzzolente. Mentre gli gettavo un'occhiata, raccontai dell'altro foglio che conservavo a casa di Ofione. Demos, non si tratta solo di dispute filosofiche, che comunque potrebbero avere la loro importanza. È lì, nell'Accademia, che si creano le basi per promuovere nuove leggi. Credimi, non so cosa sia accaduto, ma quel maledetto Aristotele è rimasto scosso dalle mie parole. Potrebbe essere importante, Demos, e forse io e Eudosso possiamo trovare una copia del grande ordinamento. Non ti preoccupare, non mi separerò un solo momento da lui. E poi c'è anche l'astenia, stai tranquillo. Mentre parlavo andavo leggendo le frasi scritte sui fogli. Erano periodi spezzettati, cancellati, riscritti, versi, poesie incompiute. Sogno di baciare la tua bocca. Mi strazio al pensiero che non vuoi che affondi più la mia bocca tra le tue cosce, mio amato. Non ricordi il nostro stupore di quando i nostri turgidi si sfioravano come due spade d'alabastro incandescente? Lessi il contenuto di quei due fogli a Demos. Un vecchio che scrive al suo bello, un Platone al suo innamorato. Il mio compagno serrò gli occhi pensieroso. Non è che nel grande ordinamento erano nascosti versi d'amore, frasi che dovevano restare segrete. E perché Demos? Nelle Laude sembra che l'amore tra uomini sia la pratica più normale del mondo. Ma non per un Platone vecchio, che si è messo a fare il legislatore, che ormai vive nel suo mondo di finzioni. Me l'hai detto tu che uno degli articoli delle leggi è contro l'omosessualità e che ha previsto addirittura la pena di morte per chi si macchia di questo reato. Pensa se qui, da Ofione, si vendessero le poesie d'amore di Platone per Aristotele. La sua voce era grave. Rimisi i fogli nella borsa mentre Ofione rientrava nella libreria accompagnato da Coridemo. Il gigante mi salutò con il suo vecchio intercalare demoni e sicofanti. Poi stette ad ascoltare quello che Demos gli raccontò della sua vita, della fascia di cuoio che gli copriva la fronte per nascondere il marchio a fuoco a seguito della prima fuga. Trascorse una mezza clessidra e tornarono Eudosso e Unai assieme a Diogene e Iperide. Cominciò a parlare Eudosso. È giunto il momento del viaggio alla penisola calcidica. Tutte le strade sembrano portare lì. La linea ideale delle statuette, il grande ordinamento. Aristotele che in questi giorni si è recato alla sua cittadina natale, a Stagira, nella penisola calcidica, dove possiede una parte dello sfruttamento della piccola miniera d'oro. Filippo il Macedone, che sta muovendo le sue truppe migliori per conquistare Olinto. Quello che poteva sembrare uno dei miei tanti viaggi di studio, ora sta assumendo significati ben diversi. Tutto sembra convergere verso quel pezzetto di costa. Dalla borsa che portava a tracolla estrasse un foglio di papiro arrotolato. Lo aprì mostrandolo a tutti noi. Abdera, l'isola di Taso, il monte Pangeo, Stagira, Olinto, miniere d'oro esaurite, miniere d'oro incredibilmente attive, miniere d'oro che potrebbero saltare fuori da un momento all'altro. E tutto questo accade dove? Nella terra della rivoluzione filosofica, dove sono nate le più geniali menti della storia umana. Protagora, Leucippo, Democrito. Dove è nato anche quel bastardo di Aristotele? Soltanto oro c'è in quella terra. È l'ora di partire. Io non ho idea di come fare, perché lì adesso ci sono i preparativi di guerra. Io ci metto tutto quello che ho, le mie mappe geografiche e tutte le dracme che mi restano. A voi la parola, amici. E gli occhi neri si erano riempiti di luce vivida, di nuova forza. Diogene si intromise alzando una mano. Qualunque decisione venga presa, occorrerà denaro per realizzarla. Io ho una cassettina d'oro che apparteneva a Democrito. Voi andrete nella sua terra per far luce sui suoi libri, quindi è giunto il momento di tirar fuori quell'oro. Ricchezze e oro sono inutili. È una vita che lo vado predicando, ma Democrito voleva utilizzarlo per uno scopo nobile, per insegnare l'atomismo. Era suo. Usatelo anche per la sua causa. E ci abbracciò tutti con i suoi occhi ardenti. Prese la parola Iperide. Ebbene, a questo punto potreste domandarvi cosa c'entra tutto questo con la battaglia che sto portando avanti io. Dunque, guerra, sempre la guerra. Il Macedone avanza. Se riuscirà a impadronirsi di altre miniere d'oro, non solo non ci sarà mai la liberazione degli schiavi, quella che sogniamo io, Assiotea e Demos, ma ci faranno schiavi tutti. Mentre l'assemblea della Pnice continua a fregarsene di quello che sta accadendo nella penisola calcidica, noi dobbiamo fare qualcosa. E Coridemo e Focione sono gli uomini adatti. E rivolto al gigante, lo invitò a esprimere un suo parere. Lo stratega si schiarì la voce. Se perdiamo l'Into, avremo il Macedone ad Atene. Al di là della faccenda delle miniere. Olinto è un punto strategico, è l'ultimo baluardo. Tutte le forze di Atene dovrebbero concentrarsi là. Demostene sta facendo di tutto per convincere l'assemblea con le sue olintiche. Personalmente credo che con o senza il permesso della Pnice qualcosa bisogna pur fare. Demos cercò conforto nei miei occhi, poi con la sua voce grave parlò. Immaginate quello che è successo nelle viscere dell'Aureo quando è cominciata a circolare la voce di una ragazza schiava, di nome Assiotea, che alla Pnice aveva affiancato Iperide, parlando a favore della liberazione di tutti gli schiavi. Nelle miniere tutti pensano che sia giunto il momento. È giunta l'ora per offrire agli schiavi un'opportunità. Non ci sarà mai un'occasione più adatta. Iperide, Coridemo, posso dirvi solo questo. Con o senza di voi, io guiderò un gruppo di schiavi. Andremo nella penisola calcidica, tenteremo di liberare gli schiavi delle miniere d'oro del Pangeo. Se ci riusciremo, strapperemo le miniere al Macedone. Con l'oro pagheremo il riscatto di tutti gli schiavi dell'Ellade. Poi, se i cittadini dell'Attica e dell'intera Ellade non ci vorranno, ce ne andremo su qualche isola a vivere per conto nostro, in pace. E non ci faremo mai governare da un uomo, perché noi uomini sappiamo fare solo le guerre. Ci faremo governare da una donna. Inutile dirvi chi è questa donna. E con un dito sfiorò i miei poveri occhi pieni di commozione. Fu Coridemo il primo a reagire. Per Dio, ma sei matto? Attaccare il Pangeo? Hai un'idea di quanti soldati ci tiene Filippo? Dalle nostre stime è un piccolo esercito. Quell'esercito non potrà mai sconfiggere degli uomini a cui non interessa di morire. Coridemo, il locus che guiderò, sarà invincibile perché lotterà solo per liberare gli altri. La freddezza e la serenità con cui Demos parlava fece restare perplesso il gigante stratega. Demos proseguì. Per me e per i miei uomini potrebbe esserci una possibilità di farcela perché non saremo soli. Ricordati che nelle miniere del Pangeo dovrebbero esserci alcune migliaia di schiavi minatori e si ribelleranno dall'interno. Noi dovremmo pensare solo ad aiutarli, poi avremmo formato un'armata fortissima. Avevo il cuore che galoppava. Mi veniva da piangere. Volevo intervenire, ma non potevo spezzare il sogno di Demos. Corridemo lo fissò a lungo, poi si decise a rispondergli. E perché no, Demos? A volte i sogni più folli riescono, proprio perché nessuno penserebbe mai che dei pazzi potrebbero attuarli. Il gigante fissò Iperide. Che ne dici? Bisogna tentare. Io e Demostene stiamo facendo di tutto per convincere l'assemblea a mandare un esercito là, ai confini, per difendere Olinto da un attacco. Ma i signori ateniesi ormai vivono stravaccati sui gradini del teatro, a godersi belle commedie con una borraccia di vino in mano. Rivolgendosi a Demos, di quanti uomini potresti disporre? Per adesso attorno a un centinaio, per armare i mezzi a trireme. Sanno combattere con qualunque tipo di arma, comprese le mani nude. Abbiamo anche una ventina di cani molossi addestrati. Mio figlio Unai, quel ragazzino di 12 anni che fa la guardia qui fuori, da solo potrebbe tener testa a due o tre arcieri armati. Dietro lo sguardo buono del mio compagno si intravedeva una luce che esprimeva la solidità di una roccia. Iperide lanciò un'occhiata scrutatrice allo stratega. Il gigante squadrò Demos dalla testa ai piedi. Tu? Affronteresti questo viaggio anche a piedi, sperando di ingrossare il tuo gruppo strada facendo? E continuava a guardare fissamente il mio compagno. Dobbiamo partire quanto prima. Ecatombeone è il mese ideale, giornate lunghe, ottima stagione. E rivolgendosi a Odosso, Demos aggiunse: Sono sempre più convinto che le due missioni debbano procedere unite. Fu Coridemo a intervenire. Dovete assolutamente unirle. In quella zona non ci si può andare senza un contingente armato. Non so se l'avete capito, ma lì la guerra è già in atto. E si grattò la testa, scompigliando ancora di più la folta capigliatura biondastra. Bisogna armare almeno una trireme, assolutamente. Navigando lungo le isole a oriente, Lemno, Imbro e Samotracia, giungere di fronte a Manorea e scendere verso Abdera, e da lì attaccare il monte Pangeo da Levante. Da ponente sarebbe un suicidio. Respirò a fondo. Devo venire anch'io con un'altra trireme, con i miei migliori uomini, mercenari che sanno combattere ancora per un ideale. E rivolgendosi a Iperide. Demoni e sicofanti, tu lo sai, non posso fare di più. La mia flotta è piccola, appena 18 triremi, 4.000 peltasti e 150 cavalieri, in attesa che l'assemblea ci mandi a difendere Olinto. Inoltre ci serve anche qualche talento, dobbiamo metterci subito al lavoro. Al massimo tra una settimana dobbiamo partire. Iperide ci guardò tutti, mentre con le mani si stropicciava le braccia incrociate. Finanzierò la trireme che comanderà Coridemo, ma è meglio che io resti qui assieme a Focione. Se la vostra impresa riuscirà, dovremo sfruttarla subito, venire in vostro soccorso da ponente, arroccarci a Olinto, difenderla, presidiare le miniere del Pangeo. Potrebbe essere l'occasione per ricacciare indietro il Macedone una volta per sempre e convincere l'assemblea ad abolire la schiavitù. E scuoteva il capo, lo sguardo incupito dall'incertezza. Demos attese, fissando Coridemo. Poi si decise a parlare. Iperide, io e tutti gli schiavi dell'Ellade ti saremo sempre grati per quello che hai fatto e che continui a fare per noi. Ma sappi che se riuscirò a strappare le miniere del Pangeo al Macedone, a presidiarle, resteranno i miei uomini e gli schiavi minatori. Le miniere rimarranno in mano nostra fino a quando non verrà abolita la schiavitù. Soltanto dopo i cittadini di Atene potranno venire a prendere l'oro, in parti uguali, 300.000 parti uguali. Per Dio, tu sì che parli la mia lingua, Demos. La voce sonora di Diogene aveva spezzato l'atmosfera grave che pesava su tutti noi. Quel poco, quel tanto che Madre Natura mette a nostra disposizione, diviso in parti uguali. E artigliò il bastone che portava sempre con sé. Feci cenno se potevano ascoltare anche me. Voi uomini la guerra l'avete nel sangue, e quindi è inutile che provi a fermarvi. Posso chiedervi di chiamare questa operazione la Casa del Cielo? Mi guardavano tutti stupiti, come se li avessi svegliati da un sogno cocente, e fu Coridemo ad assicurarmi che andava benissimo. Proprio quando eravamo sul punto di andare via, giunse Focione. Scalzo, il volto austero come sempre, venne in mezzo a noi. Demos e Coridemo lo misero al corrente dell'operazione. La sua faccia arcigna divenne ancora più cupa. Da un punto di vista militare è una follia. Dunque, voi contate di ingrossare le vostre file strada facendo. Ma non credo che basterà. Il Macedone sa perfettamente che ha potuto riorganizzare il suo esercito e le sue finanze così bene, proprio grazie alle miniere d'oro del Pangeo. Senza di esse, la Macedonia non vale niente e non a caso le tiene così ben presidiate. Non funzionerebbe, a meno che non ci sia una grande trovata, un attacco che non so immaginare. Astuzia. Astuzia ci vuole. Coridemo, tocca a noi due. E i suoi occhi torvi brillavano di fuoco e di rabbia repressa. Proprio in quel momento mi ero messa a fissare il laccio di cuoio sulla fronte di Diogene, un ricordo improvviso. Chiesi un po' di attenzione. Diogene, al Pireo mi raccontasti di quello che succede nella tua terra natale, a Sinope, le miniere d'argento. Aspetta. I sacerdoti e alcune migliaia di schiavi sacri. Il vecchio filosofo restò sconcertato. Dunque, sulla costa del Ponte Leusino ci sono tante miniere, ma di ferro, di rame e d'argento. La cosa più interessante è che ci sono tre località famose: Zela, Comana e Cabina, dove sorgono i templi di Anaitis, Ma, Men e Farnakao. I proprietari terrieri di quasi tutta questa terra, che sfruttano anche le miniere, sono i sacerdoti di quei templi. I loro introiti più grandi però non derivano loro dalle miniere, ma dalle bellissime ragazze schiave che fanno prostituire nei templi. Non sono povere puttane come quelle dei nostri postriboli, bensì prostitute sacre. I sacerdoti le hanno fatte diventare sacre. Chi si ferma in quei templi paga sì un bel po' di dracme, ma si guadagna anche un pezzetto di immortalità, almeno a detta dei sacerdoti. Ma per rendere credibile la loro storia, hanno fatto diventare sacro tutto, anche le miniere, anche gli schiavi. Oltre 6.000 persone sacre. Ed emise una di quelle risate che ci riconciliò con la vita. Fu Demos a interrogarmi su cosa avessi in mente. Non ne avevo idea. Mi aveva colpito la faccenda di tutti quegli schiavi sacri. Tre remi religiose, schiavi sacri. Anaitis, Ma, Men e Farnakao. Il volto arcigno di Focione si era illuminato. Allestiamo le nostre due triremi, come quelle che usiamo per le funzioni religiose, ma cariche di schiavi sacri, vestiti come sacerdoti, che per esempio devono dare il cambio a una parte di quelli del Pangeo. Perché quelli del Pangeo devono andare, almeno una volta nella vita, a fare un viaggio ai templi di Anaitis, Ma, Men e Farnakao, per far sì che la loro anima immortale un giorno si incarni di schiavo in schiavo fino a un uomo libero, proseguì Demos entusiasticamente. Focione concluse. Una volta che i nostri uomini saranno all'interno delle miniere, daranno vita alla rivolta, guideranno gli altri, 5-10.000 schiavi armati contro i soldati del Macedone. Allora sì che potrebbero essere buone possibilità di riuscita. Ora lo studiamo bene il piano, lo perfezioniamo, ma l'idea di attaccare con delle triremi travestite da navi religiose, sì, credo che possa funzionare. Anche Coridemo aveva quasi urlato. Demos, tu partirai dal Pireo con i tuoi uomini, verrò anch'io con te. Raggiungeremo i miei soldati nell'Elesponto di fronte a Troia. Armiamo le due triremi religiose e partiamo verso Abdera. Ci fermiamo qualche giorno affinché Eudossa e Sotea facciano le loro ricerche e poi via al Pangeo. E strinse i pugni. Iperide mi guardava entusiasta e io gli ero grata nel vederlo così accanto a Demos, traboccante di amicizia. Tutti e due accalorati per lo stesso ideale. Sfiorai la folle capigliatura di Ufione e uscii dalla libreria. Due braccia esili mi piombarono al collo, cercando il mio amore. I nostri due flauti di ciliegio appesi al collo cozzarono l'uno contro l'altro, producendo frenetici rintocchi di gioia. Mentre abbandonavamo la gorà, il sole cominciava a nascondersi nelle lontane acque del Pireo. Cercavo di mostrare a Unai la bellezza dell'Acropoli, investita dagli ultimi raggi taglienti, di spiegargli quali erano i monumenti, ma lui aveva occhi solo per me, teneva la mia mano attanagliata alla sua. Gli chiesi di Emone, mi disse che era morto poco dopo la mia partenza da Flionte e, accorgendosi del mio dolore, prese a strattonarmi con delicatezza, dicendomi che il trapasso doveva essere avvenuto senza sofferenza. Una mattina l'aveva trovato morto, con la faccia serena accanto a Titano. Gli stringeva una zampa con la mano. Quando il vecchio libraio aprì la porta, gli occhi di Titano ci accolsero spalancati, in attesa. Mentre Unai gli passava una mano sulla testa, il cane mi fissava, si avvicinò a me, mi annusò una gamba, sollevò il capo. Capì che mi aveva riconosciuta. La coda, presa a muoversi inquieta e contenta, non mi toglieva gli occhi di dosso. Mi chinai, l'abbracciai sotto gli occhi teneri di Demos e Ofione. Quando Unai mi disse che Titano sarebbe venuto con noi sulla nave, l'apprensione che mi era piombata sul cuore nella libreria durante la discussione si attenuò. Io e Ofione preparammo la cena. Titano divorò una scodella di minestra e pane. Anche noi ci mettemmo a mangiare. Ofione mise in tavola anche una caraffa di vino. Quando calò la sera, Unai si mise a dormire accanto a Titano e Ofione nella cucina a salone d'ingresso, mentre io e Demos occupammo la stanzetta di sopra con la finestrella che dava sull'areopago. Abbracciata Demos, il mio orecchio sul suo cuore, avevo paura a parlare. Dopo un tempo interminabile non resistetti. Demos, ti prego, di qualcosa, io mi sento male. Vuoi che ipocritamente ti dica che sono felice che proprio qui, su questo letto, hai fatto l'amore con Iperide? Era disperato. Ah, questo dolore passerà. Tu hai fatto con ritardo quello che doveva accadere nella notte di pioggia, prima dell'assemblea dell'Apnice. E il fatto che io sia un mezzo uomo non c'entra, capito? Sarebbe accaduto comunque. Non accadrà mai più. Non riuscivo a spezzare quella morsa di dolore. Abbracciavo Demos, avrei voluto essere sua e donargli quello che avevo offerto a Iperide e oltre, oltre ancora, e cercavo i suoi occhi e bevevo la sua bocca. Assiotea, non abbiamo colpa di questa situazione. Se fosse dipeso da noi, ora staremmo qui a impastare una sorellina per Unai. La voce gli tremava. Mi afferrò la nuca, mi baciò alla fronte. Non pensarci più e lascia stare gli stupidi rimorsi. Io invece ti prometto che quando torniamo andrò a lezione da Diogene. Deve ficcarmelo bene in testa la faccenda che noi uomini non dobbiamo considerare una donna come nostra proprietà. Lui dice che è orribile pensare che una donna possa appartenerci, che se lei vuol giacere con un altro uomo ha tutto il diritto di farlo. Mi sfiorò gli occhi con le labbra così tenere che fecero sciogliere il grumo di dolore che mi attanagliava il cuore. Andrò a lezione, da Diogene, te lo prometto. Tu, nel frattempo, restami accanto. Sei la luce venuta a rischiarare la mia povera vita. Poi venne a trovarci, a sfiorarci, forse la stessa lucciola, silenziosa, luminosa. Capitolo 8. La casa del cielo, missione pericolosa. Quella mattina le sue lunghe falcate erano irraggiungibili, mi costava fatica tenergli dietro. Gli occhi neri gli bruciavano di impazienza. Voi avrete bisogno di me, delle mie tappe, quelle di Coridemo sono antiquate. Sono io il più attento geografo dell'Attica e dell'Ellade. Poi devo trovare i libri di Leucippo e Democrito, devo cercare le miniere d'oro, devo scoprire assieme a te la casa del cielo. Non rinuncerei a questa missione per nulla al mondo. Eudosso si girò, ma afferrò per una mano, mi dette uno strattone allegro per spronarmi a correre un po' di più. E poi devo proteggere la regina della leggenda in arte a Sotea di Friunte. Cercai di affiancarlo, di richiamare la sua attenzione, ma lo vedevo infervorato come mai. Lo so che c'è Demos al tuo fianco, Ma il tuo uomo pensa solo alla guerra. Io invece ho tutto il tempo per dedicarmi ai libri e alle leggende. La sua faccia scavata mi parve stranamente distesa, felice. Quando torniamo, apriremo la nostra accademia. Tu, io e Diogene al Cino Sarge, l'Accademia dei Razionalisti, dove insegneremo come prima materia l'atomismo. E cercò i miei occhi per trasmettermi il suo entusiasmo e forse riuscirò a convincere anche Eraclide. Nel frattempo eravamo giunti all'entrata dell'Accademia. Lo schiavo col molosso ci fece passare. Quando giungemmo davanti all'aula di astronomia, Odosso si fermò. Oggi non partecipo alle discussioni filosofiche. Resto qui, ho da fare. Devo prepararmi per il viaggio, devo sistemare parecchie mappe, poi attanagliò la borsa che portava a tracolla. Ieri finalmente è arrivato Racio. Ora vai a Siotea, altrimenti fai tardi. Ti aspetto qui quando hai finito di mangiare. Anzi, se mi porti un po' di frutta te ne sono grato. E si infilò nell'aula. Mentre mi dirigevo verso la sala di filosofia, pensai che era bello avere sulla nave Odosso il suo entusiasmo. Le fronde dell'ippocastano stormirono, fu come una folata d'aria gelida ci attraversasse tutti, proprio mentre Platone e Aristotele entravano. Lo stagirita aveva la faccia rosea più minacciosa che mai, mentre il maestro, accigliato e appoggiandosi all'allievo, girava il capo fissandoci tutti, come se volesse accertarsi della nostra presenza. Sedettero di fronte a noi. Platone biascicò con la bocca pastosa, poi senza guardarci, con la voce più fioca che mai, parlò. Invoco il sommo Zeus che tutto compie, perché alcuni uomini, che hanno avuto l'arroganza di chiamarsi filosofi, hanno sentito il bisogno di immaginare gli atomi. Mai nessuno aveva osato tanto. Quei due nemici dell'umanità e della vita, di cui ho nausea e orrore al sol pensiero del loro nome, questi due dannati abderiti, hanno cercato di spazzar via con una sola idea empia e malefica tutto quello che donava all'uomo luce e speranza. Questi due dannati, ed è indispensabile che teniamo a mente i loro nomi in modo da saperli riconoscere, Leucippo e Democrito, il suo viso si trasformò in una maschera ridicola, nauseabonda. Hanno inventato gli atomi e il vuoto per attaccare l'anima, gli dèi, la vita oltre questa vita. Questi due esseri infernali hanno immaginato di distruggere la vita, perché la vita vera non è questa, perché il nostro corpo altro non è se non una tomba. La vita vera è la nostra anima, è quello che ci aspetta dopo la nostra morte, il viaggio che farà la nostra anima verso l'immortalità. Ebbene, queste due bestie hanno usato immaginare che anche l'anima è fatta di atomi. Se il pensiero di questi due maledetti si diffondesse, la specie umana sarebbe cancellata dal mondo.